no problem, ti mando subito la gravetta. E lei è svenuta. E lei, no. Lei ha risposto: so depressa, mi mancate, non posso neanche attaccare pilota a nessuno, du palle. So, allora la salutiamo, il pilota non li attacca mai. Ciao, per cui va benissimo. Però io, Franco, oggi purtroppo torno a cercare di capire che cos'è la destra e cos'è la sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Oh, oh. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? E Gabber aveva ragione, cara Ale. Che cos'è la destra e che cos'è la sinistra? E in più si aggiunge un'altra domanda: chi è di destra e chi è di sinistra? Però ti devo dire che ieri un nostro ascoltatore ha colto il punto scrivendoci un SMS fantastico e ha scritto: il principale leader della destra è D'Alema, perché come porta i voti lui al centrodestra non li porta nessuno. Esatto, carale, la sinistra aiuta la destra e la destra aiuta la sinistra. Sì. E poi ci è arrivato anche un altro SMS: il miglior leader della destra è... è Renzi. Ecco, perché bene. Sai cosa vuole dire PD, cara Cravetto? Questo lo so, Partito Democratico. Assolutamente no, vuol dire passa a destra. Senti, però mi sembra ci sia confusione anche in Parlamento. Sul Corriere è uscito un articolo che intitolava: con lo scioglimento del PDL, la scissione del PD, le divisioni del centro, le sigle in Parlamento sono passate da 10 a 25. Con la buona salute. Esatto. Un esempio: il PDL ha dato vita, suo malgrado, ad altri 4 gruppi parlamentari: conservatori, riformisti, GAL, ALA ed Insieme per l'Italia, non pochi. Beh, perché, scusa, a sinistra? Dico, ne vogliamo parlare. Peggio. Dal PD sono nati Possibile di Civati, poi MDP con la D minuscola che guarda però a Pisapia, poi c'è Sinistra e Libertà che invece è rinato come Sinistra Italiana. Comunque, Franco, con tutti questi intrecci c'è il padre che sta con la madre che sta con lo zio che sta col figlio, a me ricorda tanto Beautiful. Beautiful, stupendo. Che meraviglia, tutto un inciucio tra zii, cognati, figli, padri, madri, sorelle, ecco. Qui proprio le cugine non contano, ti spettano di dritto. Io i padri in questi giorni li lascerei perdere, perché sennò diventa scivoloso il terreno. Sì. Ma torniamo alla confusione dei simboli in Parlamento, perché c'era già qualcuno che ai tempi li raccontava bene. PCPC, perché più, DCDC, perché più. Ecco, cioè, la cosa più bella però è che dal PD sono riusciti a creare il DP. Ecco, ma se il PD vuol dire passa a destra, il DP che vuol dire? Destra passare. Senti, Franco, io davanti a tutta questa confusione un'idea chiara ce l'ho. Fondiamo un partito. Ma chi? Noi due? Sì, finalmente il nord e sud uniti, il Piemonte e la Calabria. Funzionerebbe benissimo. Senti, Ale, veramente, voi piemontesi adesso, non per andare ecco indietro, fare di trilogia, ma ci avete già provato, non è che sia andata proprio benissimo. Ma adesso sarebbe tutto diverso, perché i piemontesi invece di andare con i sardi andrebbero con i calabresi, che è tutta un'altra cosa. Assolutamente, concordo. E pensa che io per questo partito avrei già un bel nome. Dimmi. Fiat. Perfetto. Ti piace Fiat? Sì. Sai che sta per? Come che sta per? Forza Interrazziale Autonoma Testardi. Franco, io però... Non te ne che più. Oh, questi giovani d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? Daniel Tarozzi, 39 anni, romano, giornalista, scrittore e viaggiatore. E proprio da un lungo viaggio alla scoperta dell'Italia è nato il progetto Italia che cambia. Ecco Daniel, che cos'è l'Italia che cambia? L'Italia che cambia, io pensavo che fosse un'utopia, invece è una fantastica realtà. È quella che ho scoperto fin dal 2012, partendo con questo vecchio campo all'esplorazione di tutte le regioni italiane, e io mi aspettavo di non trovare niente, cioè mi aspettavo di trovare qualche pioniere isolato che inventava dei progetti. E invece invece la cosa che mi ha sorpreso positivamente è stata scoprire un pezzo di paese che funziona in modo meraviglioso, imprenditori, associazioni, movimenti, singoli gruppi che di fronte a un problema non si chiedono se ma come, come posso fare a cambiare le cose e ce la fanno, no? Queste storie che tu hai incontrato e raccontato prima in un libro e poi adesso anche in un progetto più ampio, sono storie di giovani, tra virgolette, diversamente occupati che reagiscono ad un'Italia che invece che cosa fa? Sono giovani che reagiscono e si oppongono a un'Italia che si arrende, a un'Italia che ha smesso di sognare, e non lo dico in ottica politica, ma in ottica concreta. Cioè oggi l'immaginario dell'Italia e degli italiani è sempre solo decadente. Noi quando diciamo siamo italiani intendiamo, siamo italiani, ladri, corrotti, squallidi, insomma qualcosa di brutto, no? Che è un peccato invece, essere italiani quasi. Esatto, però quando diciamo questo non ci ricomprendiamo mai, cioè intendiamo sempre gli altri ma noi no. E allora ho cominciato a chiedermi se questi noi no fossero tanti, e andando in giro ho scoperto che erano tantissimi, cioè ti parlo di migliaia, centinaia di migliaia di persone, qualcuno dice milioni, che già oggi stanno costruendo un altro tipo di Italia, un'Italia che funziona a livello economico, sociale, umano, ambientale, da tutti i punti di vista. Ecco, c'è un denominatore comune in cui questo cambiamento che tu racconti nasce da un punto particolare? Guarda, il denominatore comune è non arrendersi di fronte ai problemi e cercare sempre un'alternativa, e l'altra grande parola chiave è quella della responsabilità. La responsabilità individuale nel senso di attivarsi in primis per cercare di cambiare le cose, ma anche la responsabilità collettiva, perché poi un individuo, tutti i progetti con contratto sono guidati da individui che poi però si mettono in rete con altre persone, con altri movimenti, con altri gruppi, con altri imprenditori, e insieme riescono a fare cose, no? Quindi condividono. Che cooperano. Sì, la cosa incredibile ad esempio sono questi imprenditori che cooperando vedono crescere fatturati, quindi la cooperazione che vince sulla competizione, che già sembra qualcosa di strano, no? Rispetto a, alle idee che abbiamo attualmente. Oggi dal progetto Italia che cambia lanciate uno spin-off che si chiama Piemonte che cambia. Di cosa si tratta? Si tratta di un'esigenza che ci è arrivata fortissima dai territori, nel senso che con Italia che cambia, oltre a fare il racconto giornalistico sul web italiachecambia.org, abbiamo creato una mappa con 1800 progetti, ma ci siamo resi conto che quelli che ci sono in giro sono molti molti di più, e allora ci siamo detti dobbiamo trovare un modo di entrare nei territori, di fare questo viaggio, diciamo, che noi stiamo facendo a livello nazionale molto molto più dettagliato, e abbiamo così inaugurato Piemonte che cambia, che è il primo di una serie di portali che andremo a inaugurare nelle varie regioni italiane, che intende quindi raccontare, mappare e mettere in rete a livello regionale tutto questo fermento e queste realtà che già ci sono ma sono isolate e da sole, magari da sole non riescono a fare, a crescere come potrebbero. Mi fai un esempio di una delle realtà che fanno già parte di Piemonte che cambia? Sì, guarda, il Piemonte è stata la regione da cui inizio anche il mio primo viaggio, ed è davvero una regione particolare perché ospita di tutto, no? Dalle realtà più note e arcinote come possono essere i vari slow food, a realtà dal basso, Arduino, imprenditoria, eccetera. Certo. Per darti qualche esempio concreto potrei citarti i giovani che si sono messi insieme nella Val di Susa e hanno costruito un modello di imprenditoria etica, mettendosi in rete, anche qui come accennavo prima, vedendo crescere i fatturati cooperando, no? Oppure le varie associazioni che nel cuore di Torino stanno costruendo Fab Lab, laboratori artigianali. Quindi anche una riscoperta di un saper fare molto legato al territorio, cioè quasi un ritorno al vecchio artigianato? Al vecchio e al nuovo artigianato, sì. Cioè, diciamo che c'è una riscoperta del valore locale, ma non isolazionistico, non è un'autarchia, ma è un dire quello che possiamo fare qui lo facciamo qui e quello che non possiamo fare qui lo cerchiamo altrove. Certo. Ma l'artigianato da un lato è la riscoperta della falegnameria, delle arti storiche italiane, dall'altro anche però dell'ingegno più moderno, quindi ad esempio le stampanti 3D, Arduino vince premi in tutto il mondo, nasce in Piemonte, no? Daniel, nel tuo profilo online c'è scritto: mi occupo di cambiamento da 15 anni. Ecco, è cambiato il cambiamento? Sì, direi di sì, il cambiamento cambia probabilmente ogni giorno, ogni mese, e soprattutto cambia individuo per individuo. Quello che ho notato è che rispetto a 15 anni fa si sta diffondendo a macchia d'olio, è davvero una crescita esponenziale di un altro modo di pensare, che non è un modello conflittuale o fricchettone per capirsi, sì, o diciamo alternativo nel senso, sai, un po' abusato della parola, ma proprio un altro modo di pensare che in realtà sta già diventando maggioranza. Oggi è sempre più un processo collettivo, un processo che funziona e che si sta affermando, e quindi oggi penso che spesso si dice difficile cambiare, io rifletto sempre, invito sempre le persone a riflettere su quanto sia difficile non cambiare. Ti è piaciuta l'idea del Piemonte che cambia? Non per niente iniziando al Piemonte? Okay, no, l'idea la trovo fantastica, mi piace molto, sperando che un giorno arrivi pure in Calabria, che dici? Ma perché a te, scusa, la sigla Calabria che cambia ti suona veramente? Meravigliosa, CCC. Stai ancora a pensare al partito? CCC, Calabria che cambia, sai che mi piace questa idea? Non è male, brava. Sì. In più, essendo tanti, forse... Ma se stai scherzando, dice, cioè, tu sai quanti siamo noi in famiglia? Non voglio saperlo. No, lo sai? No. Cioè, tanti. Allora, se siete tanti e siete una famiglia numerosa, io ho una soluzione per te. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Ecco, Franco, dicevamo, ma se dovessi portarli tutti, cioè tutta la tua famiglia dalla Calabria a Roma, ma quanti sareste? Allora, vediamo un po', tra parenti stretti, prima, seconda, terza generazione, insomma, io penso che sfioriamo il migliaio. Ecco, non sarebbe un viaggio, sarebbe un esodo. Ecco, benissimo. Allora, ho la soluzione per te e anche per tutte le altre famiglie numerose. Si chiama busrapido.com ed è un sito in cui con tre semplici mosse ti mette a disposizione un pullman per viaggiare dove vuoi al miglior prezzo, soprattutto per quante persone vuoi, per cui per te è indicatissimo. L'idea è nata da tre ragazzi giovanissimi, di cui uno, quando era stato fondato il sito, addirittura era ancora al liceo, per cui davvero bravi. Ma sono calabresi questi, me ne parli perché sono della mia terra? No, perché uno è di Caserta. Ah, è un altro nordista, credo. sempre al nord questi settentrionali. Dalla Calabria in su è tutto nord. Ma tutti che vivono, che per noi è come se fosse il Trentino Alto Adige, Caserta. Dunque sono stati veramente bravi. Ecco, sì. vedi, quando il lavoro non c'è o ce n'è poco, alla fine te lo inventi. Come quando il partito non c'è, te lo inventi. Lo facciamo noi, ovvio. I took her out, it was a Friday night, I walk alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV. And that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. Franco, nobody likes you when you are 23. Cioè, a nessuno piaci quando hai 23 anni. Tristissima comunque. No, assolutamente. Al contrario, questa canzone racconta di un appuntamento andato a male. Perché andato a male. Perché poi questo ragazzo che è sul divano con una bellissima ragazza, finalmente riesce a trascinarlo sul divano, che fa? Accende la televisione. E di lì un disastro. È un disastro, perché lui, nonostante sia 23enne, gli piace vedere la televisione e fare degli scherzi. Quindi è rimasto un po' bambino. È rimasto un po' bambino, però questo gruppo, i Blink 182, hanno avuto un'idea geniale, perché quando hanno realizzato questa canzone hanno fatto un video bellissimo dove loro, che hanno fatto, andavano in giro per strada nudi ed erano proprio loro. Ecco, bella cosa promozionale. Che è un po' il tuo sogno. Il mio sogno, mia cara, io ci ho provato una volta, ricordo, era a Castelfusano, su una spiaggia di nudisti, e mi hanno cacciato! Cioè tu, nudo, sei stato cacciato dai nudisti, sì, cioè non è successo a nessun altro, sei l'unico, lo sai? È un caso assoluto. Ecco, io su questa immagine, che non voglio immaginare, ti saluto e soprattutto saluto anche Ale Fiori. Ciao Ale, riprenditi presto, per cortesia non mi lasciare in mano a questa iena. Mi chiama iena, ma in realtà mi ama, perché io e te, Franco, siamo la coppia più bella del mondo. Per fortuna, con te, ai primi accenni di malattia, Ale Fiori aveva già preparato la puntata di Musica e Storia del 1999, che andrà in onda dopo la pubblicità. Assolutamente. Allora, io vi ritrovo dopo la pubblicità con il 1999 e con una Fiori ancora parlante.